bello sulla tua stanza, guardarmi intorno a te. In mezzo a questa festa per cercare di vedere se lontano l'arriva già, poi chissà come sarà. Sono un concetto che sembra un damerino, camicia a fiume, 3 litri di profumo. Provo un sorriso ammaliatore, sembro un idiota, un altro room per favore. Ancora mi chiedo perché io questa sera sono qui, ma cosa faccio, ma per chi? Una risposta certo c'è, sono qui solo per amore, per una notte d'amore. All'improvviso, in mezzo a questa gente, noto un donnone col passo traballante, trucco pesante, labbra gommone, tacco da 10 coronata da un tupè. Giro lo sguardo, vuoi mai che mi vede se sfugge un sogghigno, la trovo esilarante. Mi son distratto, alzato lo sguardo, me la son trovata qui ed ora sta di fronte a me. Oh santo cielo, che farò? Questo donnone è proprio no, vorrei scappare via da qui. Lei mi squadra un po' dall'alto in giù, non dice nulla, un cenno e poi siamo già in pista a ballare. Mambo latino, mambo straniero, non ci credevo invece tutto vero. Ballo un po' e mi sento leggero, mannaggia che guaio, l'appuntamento al buio. Mambo latino, mambo sfigato, lo ballo sembra un po' tarantolato. E mi lascio andare e chiedo aiuto, Pido, Mercurio, l'appuntamento al buio. Io non so tanto ballare, vabbè ci metto impegno, speriamo che vada bene. Quando ad un tratto un losco figuro ubriaco vien qua ed incomincia ad insultare. Lo guardo fisso, io rispondo per le rime, lui mi spintona ed anch'io alzo le mani. Nasce una zuffa in questo marasma, il donnone che fa? Lei grida, matalo, matalo. Oh, l'apro gonfio un occhio blu, esco il malconcio da sto bar, parco e penso a rincasare. Il mio donnone non c'è più, è andata con lo scopicù che lo trovava più virile. E mi consolo con un mambo latino, mambo straniero, non ci credevo invece tutto vero. Ballo un po', mi sento leggero, mannaggia che guaio, l'appuntamento al buio. Mambo latino, mambo sfigato, lo ballo sembra un po' tarantolato. E mi lascio andare e chiedo aiuto, Cupido, Mercurio, l'appuntamento al buio. Mambo latino, mambo straniero, non ci credevo invece tutto vero. Ballo un po' e mi sento leggero, mannaggia che guaio, l'appuntamento al buio. Mambo latino, mambo sfigato, lo ballo sembra un po' tarantolato. E mi lascio andare e chiedo aiuto, Cupido, Mercurio, l'appuntamento al buio.